rispetto è la prima regola. Rispetto per tutti, rispetto per la gente, rispetto per il posto. È l'unica cosa che ci rimane. Forse non tutti lo sanno. O di cosa parlo. È un sentimento Mad Boys, Mixtape, volume 2. L'ho imparato da bambino, passo dopo passo sul cemento. Non confonderlo con la paura o lo spavento. Ho bene dentro in testa fisso il suo significato, anche se purtroppo troppa gente l'ha dimenticato. Forse non l'ha mai saputo, a testa bassa mi rifiuto. Forse dipende da gente posto dove sei cresciuto. Io sulle merde ci sputo, così che mi hanno insegnato frate. Se non imparavo preso schiaffi da mio padre. Da piccolo rispondevi a un più grande e rammazzate. Mentre adesso di sti tempi troppe cose sono cambiate. Vedo un ragazzino, petto in fuori, il cappellino copre il viso, forse per nascondere un falso sorriso. Va deciso, non curante del fatto che qualche tempo fa o abbassavi la cresta, dovevi stare attento fra. Così che va, ti racconto sto sentimento profondo, che col tempo cambia il vento e sta andando sempre più a fondo. Infanzia, per capirlo mi ricordo. I primi tempi non capivo, poi non gli ho dato più torto. Mi ero accorto che con lui con me non avevo problemi. Come una guardia del corpo ci faceva star sereni. Stessi schemi ben precisi che non dovevi violare. Se lo fai rischio pericolo e rischi di litigare. È così che deve andare, per me lui è troppo importante. Una parola sola, un significato gigante. Quante persone si sono scordate che esiste? Tante, purtroppo questo rende il mondo triste. Storielle impreviste, gente sputtana il suo nome. La mia cura come per un tossico il metadone. Io mi chiedo come passa il tempo e lui ora sta sparendo. Anche se non è con me, tranquillo, ce l'ho sempre dentro. Faccio centro con ste rime, lo saluto con affetto. Ricordate il suo nome, ve lo dico io. Rispetto, rispetto, rispetto. Signori e signori, chi vuole un kebab? Chi vuole un kebab? Chi vuole un kebab? Chi vuole un kebab? E io